Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Mi viene da ridere perché è tutto l'anno e anche negli anni precedenti che vi rompiamo le scatole col multitasking, col fatto che multitasking fa male, ma se c'è un giorno dell'anno in cui il multitasking vince e su tutti i buoni propositi trionfa lui, beh, questa è proprio la vigilia di Natale. Quindi oggi è il trionfo del multitasking, perché io lo so che state correndo per comprare gli ultimi regali e fare le ultime telefonate, poi c'è da preparare la cena o da fare degli acquisti per portarli a casa di chi vi ospita per la sera del 24. Insomma, multitasking a go-go. Ecco, siccome però la nostra missione è quella di ricordarvi che comunque l'eccesso di multitasking un giorno all'anno va bene, ma negli altri giorni fa male, noi questa domenica torneremo a parlare dei danni che l'eccesso di multitasking procurare a tutti noi, e lo faremo con un'esperta, perché se non vi fidate di noi, di Nessuno è perfetta, vi dovete fidare di una neurologa che ha dedicato al tema tutta la sua attenzione professionale. Questa è l'ultima puntata del 2017, l'ultima puntata di Nessuno è perfetta, anche se vi terremo compagnia con un meglio di. Lasciatemi fare due ringraziamenti davvero di cuore a tutta la squadra di questa trasmissione. Sono con noi oggi Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti nella segreteria, Lidia Dell'Oro e poi la grande Gaia Romani, la vera artefice di questa trasmissione. Bene, allora cominciamo con la nostra prima ospite di questa domenica di vigilia. Bentornata all'onorevole Mara Carfagna, portavoce del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e capo del Dipartimento per i diritti di Forza Italia. È stata ministro per le pari opportunità del governo Berlusconi, e intanto, prima di parlare del 2018, vorrei chiederle un bilancio del 2017. Cosa è andato bene, cosa è andato male per le donne italiane e non solo? Ma cosa è andato male? Mi viene subito da dire che abbiamo rischiato di perdere il reato di stalking, di depotenziarlo, e il reato di stalking è uno strumento formidabile che nel 2009 è stato messo a disposizione di tutte le donne italiane per potersi difendere da tutti quegli atti ossessivi, intrusivi, assillanti, molesti, che già di per sé rendono la vita delle donne un vero e proprio inferno. Perché abbiamo rischiato e invece adesso come stanno le cose? Perché con l'approvazione della riforma del processo penale a luglio è stata introdotta una norma che ha consentito di estinguere il reato di stalking in alcuni casi pagando una somma di denaro. Il caso di Torino dell'ottobre scorso, quando è stato consentito ad uno stalker, contro il parere della vittima, di estinguere il suo reato pagando 1.500 euro. Noi a luglio avevamo denunciato questo scempio normativo, prima il governo, la maggioranza, il PD avevano negato, poi hanno sottovalutato la questione e poi sono corsi ai ripari quando, ahimè, era troppo tardi, perché non c'è stata solo la vicenda di Torino, ma in generale è stato dato alle donne italiane un messaggio sbagliato. Le donne italiane hanno avvertito un senso di insicurezza e di mancata protezione da parte dello Stato. D'altra parte, importante, però, che poi, insomma, abbiamo rimediato rimediato a questo errore, il Parlamento ha rimediato a questo errore ed oggi, per fortuna, il reato di stalking continua a essere, insomma, in piedi e a rappresentare uno strumento valido per le donne. Il 2017, onorevole Carfagna, è stato anche l'anno di Me Too. Dal caso Weinstein in poi si è molto parlato della capacità delle donne di mettersi insieme e di denunciare chi in ragione del suo potere le ha cercato o ha con successo è riuscito a diciamo ottenere da loro cose che non erano appropriate. Il caso Me Too, Time ha dedicato una copertina al coraggio di queste donne. Lei lo valuta diciamo per i riflessi internazionali e per i riflessi italiani, in che misura lo valuta, positivo o negativo? Ma è la manifestazione di un coraggio, di una maggiore consapevolezza dell'importanza di denunciare. E onestamente anche le polemiche che ci sono state, che abbiamo ascoltato, chi per esempio ha ritenuto e giudicato tardive alcune denunce, sono naturalmente polemiche che non condivido, perché spesso non è facile uscire allo scoperto, riuscire a denunciare, trovare il coraggio di farlo. La cosa che va, insomma, condannata è l'utilizzo e l'abuso di un potere per costringere le donne a fare ciò che non vogliono fare, che non intendono fare. Certo, onorevole Carfagna, se ci fossero più donne in posizioni di potere forse ci sarebbe anche un riequilibrio, no? Sicuramente sì, la questione della rappresentanza femminile è una questione molto molto importante. Io per esempio mi sono fatta promotrice di una legge nel 2012 che inserisce la doppia preferenza di genere per le elezioni amministrative. Non è una quota vera e propria, ma è un meccanismo che sollecita l'elettore a esprimere una preferenza, una doppia preferenza, a patto che sia accordata ad un candidato di genere diverso dal primo, e grazie a questo meccanismo molte più donne oggi sono entrate a far parte dei consigli comunali. E questo è importante, perché bisogna naturalmente partire dal basso. Certo, c'è bisogno di costruire una classe dirigente con esperienza. E che sia anche più presente in quelle assemblee elettive che sono più vicine ai cittadini, e naturalmente poi bisogna incrementare la partecipazione delle donne all'interno delle aule parlamentari. Questa legislatura, tutto sommato, ha visto un record rispetto agli anni scorsi, non è abbastanza, bisogna fare di più. La legge elettorale prevede dei meccanismi di quote e di alternanza, quindi ci auguriamo che il prossimo Parlamento possa vedere una maggiore partecipazione delle donne, perché è chiaro, più donne partecipano alla vita politica e istituzionale, più è facile sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni di genere, e più è naturale anche assumere decisioni che vanno nell'interesse non solo delle donne italiane, ma di una società che sia più inclusiva. E poi non c'è dubbio, le donne portano comunque in politica modernità, ma anche un approccio diverso, una maggiore attitudine al servizio, un orecchio prestato verso i più deboli, ma una lei mano pensa, verso il prossimo. Sì, ma lei pensa, onorevole Carfagna, che in questa campagna elettorale ci sarà spazio per non usare soltanto le donne come belle figurine, perché comunque stanno bene nelle fotografie, ma dare loro la concreta possibilità di far vedere cosa sanno fare, perché in realtà molto di quello che sembrava essere stato un passo avanti anche in Italia, io ho l'impressione che si sia un po' perduto, un po' rarefatto. Non c'è dubbio, è una strada ancora lunga da percorrere, e bisogna lottare molto per affermare il proprio valore, il proprio talento, la propria competenza, per far capire agli uomini che non ci accontentiamo di essere messi in un recinto a occuparci di questioni sempre solo le femminili. Pari opportunità, sì, che è giusto naturalmente, sì, però, è un tema di cui è giusto occuparsi, sì. Perché quando parliamo di pari opportunità parliamo del principio di uguaglianza espresso nell'articolo 3 della nostra Costituzione, quindi non di noccioline, non di stupidaggini, però è giusto che le donne possano apportare il proprio contributo su tutti i temi che sono centrali nell'agenda politica nazionale e internazionale, perché come dicevo prima, l'approccio delle donne può essere un valore aggiunto, perché le donne portano con sé competenza ma anche valori, preparazione e talento ma anche etica, rigore morale, onestà, trasparenza. C'è tanto bisogno di queste qualità, c'è molto bisogno, soprattutto in una fase in cui la politica è in crisi. Onorevole Carfagna, naturalmente quando si parla di donne in politica, gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una donna in politica in Italia, Maria Elena Boschi. Secondo Matteo Renzi c'è stata una caccia alla donna, cioè molto di quello che si è scritto, sostiene Matteo Renzi, ma lo sostiene anche Maria Elena Boschi, è legato al fatto che lei, la Boschi, è una donna. È così? No, la trovo veramente una difesa molto patetica e una strumentalizzazione inaccettabile e anche irrispettosa per tutte quelle donne che veramente lottano quotidianamente contro pregiudizi, stereotipi, violenze e discriminazioni. Giudico Maria Elena Boschi per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto da ministro e da sottosegretario con delega alle pari opportunità. Da ministro alle riforme ha scritto delle riforme che sono state bocciate sonoramente dagli italiani. Da sottosegretario con delega alle pari opportunità si è ricordata dei temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza sulle donne soltanto a pochi mesi dalle elezioni. Questo è un governo che per 3 anni non ha avuto un ministro per le pari opportunità. Alle donne italiane è mancato un interlocutore istituzionale ed è accaduto quello che è accaduto con la legge sullo stalking, ma era già accaduto nel 2014, quando era stata approvata nel silenzio anche delle donne presenti in Consiglio dei Ministri una norma che aboliva la carcerazione preventiva per gli stalker. Quindi, naturalmente Renzi potrebbe dire che ha avuto il governo col maggior numero di donne. Bene, io potrei rispondergli che la questione della rappresentanza femminile, come abbiamo detto prima, è una delle tante questioni di cui bisogna occuparsi, ma ci sono tante donne che non vogliono fare i ministri, che non vogliono fare i sottosegretari, che non vogliono fare le parlamentari, ma che lottano quotidianamente con violenze, soprusi e discriminazioni, e a quelle donne per 3 anni è mancato un interlocutore istituzionale. Quale valore, quale principio ha ispirato la scelta di non nominare un ministro alle pari opportunità? Lei sa che quando siamo andati all'estero come governo in questi anni, per esempio alle Nazioni Unite, anche in Europa, molto spesso noi non abbiamo partecipato ai tavoli perché è stato mandato lì in rappresentanza del governo a parlare di pari opportunità un sottosegretario agli esteri, un vice ministro agli esteri, che in quelle sedi non ha potuto magari esprimere la posizione del governo italiano, ma soprattutto una volta ritornato in Italia, non avendo la delega, non è riuscito a realizzare quanto è stato deciso nelle sedi internazionali. Per chiudere, a livello nazionale, oltre allo smantellamento del reato di stalking, abbiamo assistito per esempio alla chiusura di tanti centri antiviolenza. Comunque, per diciamo onestà di cronaca, e poi chiudo con l'ultima domanda, devo citare per esempio la presenza di Maria Elena Boschi alle Nazioni Unite proprio sui temi della parità di genere, e Lucia Annibali è stata molto valorizzata, il caso di Lucia Annibali è stata molto valorizzata dalla ministra Boschi. Sì, dopo referendum. A lei sembra giusto occuparsi prima di riforme, prima di legge elettorale, prima della battaglia del referendum, e soltanto una volta persa quella battaglia occuparsi di pari opportunità. Sarà una bella... Vi invito tutte e due in trasmissione a parlarne, lei molto e la Boschi. Senta, l'ultima cosa che volevo chiederle è: che farà a Natale e a Capodanno? Sarò con la mia famiglia, con i miei genitori, con mio fratello a Salerno e... La cosa che le piace di più nel pranzo di Natale della sua famiglia? Il calore, l'atmosfera. Ma io pensavo a qualcosa da mangiare. Sono molto più prosaico. Al di là dei piatti buonissimi che... Qual è il piatto che le piace di più? A Natale? Sì. Ma la lasagna. Oppure gli struffoli che facevo una volta la mia nonna e che oggi fa la mia mamma. Bene, buon Natale, onorevole Carfagna. Grazie di cuore, grazie per l'ospitalità, buon Natale a tutti voi. Grazie. Sono Filippo Astone. Volete sapere quali sono le migliori opportunità di lavoro nel mondo dei robot? E volete sapere quale sarà il futuro di tutti noi legato all'industria e a come l'industria si fonde con l'information technology? Volete ascoltare le voci dei protagonisti dell'industria, dei numeri uno? Tutte queste notizie e queste informazioni le potrete ascoltare ogni sabato alle 14 su Radio 24. Il programma è Fabbrica 2.4. Vi aspetto al sabato alle 14. Nessuna è perfetta. Allora, bentornati a Nessuna è perfetta. Lo sapete, questo è il momento della nostra Sunday Girl. Periodo di feste natalizie, non potevamo che avere come Sunday Girl di questa domenica la più amata dagli italiani. Bentornata Lorella Cuccarini. Grazie, grazie. Ma buona domenica a tutti. La regina di ghiaccio, sei diventata il personaggio. Beh, scusami, perfido. Sono nella stagione giusta, no? Sì, sì, sì, sì, sono sul ghiaccio. Perfetta. È il personaggio cattivo questo del musical che interpreti per la regia di Maurizio Colombi, una donna crudele e però vittima di un incantesimo. Malvagia, sì, ma in realtà, guarda, è una donna un po' bipolare, diciamo, perché ci sono due aspetti. Da una parte, sì, c'è questa sua malvagità, perché io interpreto Turandot, la Turandot che è stata anche la protagonista dell'opera lirica di Puccini, però in questo spettacolo che invece è proprio in chiave musical, appunto scritto e diretto da Maurizio Colombi. E da una parte c'è la sua malvagità perché è sotto incantesimo, ma dall'altra c'è anche una sua scoperta dell'amore, una sua fragilità nel momento in cui rompe nella storia Calas, che è l'unico, questo principe misterioso, che è l'unico in grado di rompere questo incantesimo. Per cui, insomma, è veramente una fiaba per tutti, a tutti gli effetti. Il musical ormai è parte, no, della tua vita di attrice, ballerina, cantante. È un genere che porta anche molta allegria, non solo durante le feste di Natale, in realtà. Ma sì, per te che cos'è? Ma il musical per me è vita, è proprio vita a tutti gli effetti, perché attraverso il musical io sono riuscita veramente ad esprimermi totalmente, no? Io nasco con la danza perché ho amato la danza fin dall'inizio, però poi con il tempo ho studiato molto canto, recitazione e trovo proprio la chiave del musical, come dire, la migliore per esprimermi a 360 gradi. Quest'anno festeggio fra l'altro 20 anni, perché sono passati proprio 20 anni da quel celebre Grease a fianco di Gian Piero Ingrassia, che insomma è stato, forse rimane, il successo più grande in assoluto, ma non soltanto in Italia, penso un po' anche nel resto del mondo. È un titolo indimenticabile. Intanto, per restare nell'atmosfera natalizia, come si gestisce appunto la preparazione del musical e poi il musical stesso e la vita familiare, il Natale, le vacanze? Immagino che vacanze... Dunque le vacanze no, lasciamo stare proprio. No. Vacanza è proprio una parola che non esiste in questo periodo. Per me è già vacanza stare il 24 e il 25 in casa, no? con la mia famiglia, perché noi siamo in scena praticamente sempre, il giorno di Capodanno compreso. Il giorno di Capodanno dove sarete? Sempre a Brancaccio, noi siamo al Teatro Brancaccio praticamente per tutte le feste fino al 7 di gennaio. Quindi chi passa da Roma e chi vive a Roma sa dove trovare la regina di ghiaccio. E io per fortuna, insomma, ecco, sono riuscita a fare le feste da questo punto di vista, no, proprio a casa, per cui sicuramente non devo trasferire tutta la famiglia intanto, ecco, perché a volte capita di passare dei Natali anche fuori. Vi è capitato? Vi è capitato? È capitato, sì, per esempio con Rapunzel 2 anni fa, e facemmo tutta il periodo delle feste al Teatro degli Arcimboldi, e tutta la mia famiglia si è trasferita su e abbiamo fatto Natale e Capodanno a Milano. Per carità, è stato bellissimo, però diciamo, rispetto alla tradizione, sì, a me per esempio piace molto proprio il Natale, ma mi piace cucinare, mi piace proprio fare le feste così come le vivevo da bambina. È chiaro che quando c'è il lavoro queste feste insomma non riesco proprio a viverle così come vorrei, però insomma alla fine Natale, quando c'è casa, quando c'è la sera di Capodanno, quindi sarai in teatro. E che succede? Poi si fa il brindisi con gli spettatori? Com'è la tradizione? Lo spettacolo, diciamo, si comincia un pochino dopo. Solitamente noi cominciamo alle 21, ma nel caso del giorno di Capodanno si comincia un pochino dopo, di modo che si arriva praticamente alla fine dello spettacolo, ai saluti finali, che manca ancora una mezz'ora, un po' di musica, si comincia a distribuire il panettone, il pandoro, e poi si fa la mezzanotte, si fa il brindisi tutti insieme. Devo dire che è bellissimo. Io non è il primo Capodanno che faccio con il pubblico, a parte che secondo me è anche proprio di buon auspicio, no? È bellissimo. Sì. C'è una bella atmosfera calda. È proprio bello, bello, e credo che sia proprio anche un bel modo per le persone che magari non sanno cosa fare, no? A Capodanno, perché insomma si vede un bello spettacolo e poi tutto sommato ci si ritrova in una serata con persone anche che non si conoscono, ma che sono in qualche modo accomunate da una passione, no? Sì, dalla passione per il teatro, infatti. E quindi è bellissimo. E poi ecco un po', diciamo, dopo il brindisi, gli applausi e un po' di balli insieme, poi naturalmente pian piano si rompono le righe e noi si va subito tutti a dormire, perché il giorno 1 abbiamo la pomeridiana. E quindi si comincia prima. Senti Lorella, questo è stato l'anno del Me Too, delle donne che hanno denunciato le molestie, a cominciare dal caso più famoso di tutti, quello del produttore americano Harvey Weinstein, e poi la copertina di Time che è stata dedicata a questo. La storia è comune a tutti i paesi, vale per gli Stati Uniti, ma vale anche per l'Italia. Tu, a una giovane attrice, una giovane che voglia muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, consiglieresti di non farsi illusioni, perché comunque le chiederanno dei favori sessuali e quindi di attrezzarsi psicologicamente a questo? Oppure pensi che la lezione stia cominciando a servire e che gli uomini comincino a capire che forse ci rimettono loro la carriera se chiedono delle prestazioni? Beh, credo che questa denuncia in qualche modo abbia messo tutti quegli uomini che sono in qualche modo responsabili, no, di certe azioni un po' su chi va là, no? Quindi credo che oggi molestare o comunque diciamo abusare del proprio potere nei confronti delle donne, ma non dico solo nel mondo dello spettacolo, perché poi secondo me ogni settore ma non c'è dubbio, torture, no? Ecco, il nostro mondo è forse quello più visibile, però insomma sono anche dell'idea che lì dove c'è il talento è difficile che ci siano delle molestie, o meglio le donne devono anche prepararsi alle volte a ricevere delle avance, perché le avance, voglio dire, da che mondo è mondo possono arrivare, a volte sono, come dire, anche meno gradite, no? Non sempre sono delle avance. Ma se una è sicura del proprio talento è più facile dire di no, secondo te? Secondo me è più facile, no, non è facile, bisogna dire di no se si vuole arrivare attraverso la strada principale, perché se si ha il talento non c'è bisogno assolutamente di fare alcun tipo di favore. È chiaro che se poi si vuole scegliere la scorciatoia, la scorciatoia perché si è nella condizione di non potercela fare da soli, quello è un altro discorso, però lì, voglio dire, rientra anche un'azione, no? Una scelta che si fa nella propria vita, che poi magari a distanza di tempo puoi anche pagare cara. Grazie Lorella e buonissime feste con la regina di ghiaccio al Brancaccio di Roma. Grazie, buona domenica, tanti auguri a tutti. Si chiude il 2017 e si apre il 2018. Mai come in questi mesi il mondo ha bisogno di essere raccontato. Nuove crisi si affacciano all'orizzonte, vecchi focolai tornano ad animare il Medio Oriente. Radio 24 dedica 3 appuntamenti speciali per non perdere la bussola e orientarsi meglio tra le notizie di esteri. Religione, politica, economia criminale, conflitti e poi uno sguardo sull'anno che verrà. Il mondo è sempre più piccolo e io sono qui per raccontarvelo. Sono Giampaolo Musumeci. Vi aspetto con Nessun luogo è lontano, il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio, dopo il GR delle 8 del mattino, naturalmente qui, su Radio 24. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo, tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018 con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Questo è il momento che aspettavamo. Finalmente, con la prossima ospite, smantelleremo definitivamente il mito del multitasking. Benvenuta a Nessuna è perfetta la nostra dottoressa Alessandra Bizzarro, neurologa del Policlinico Gemelli di Roma ed esperta di danni provocati dal multitasking. È vero o no che fa male al cervello, dottoressa? Beh, nell'ambito delle neuroscienze siamo tutti d'accordo sul fatto che faccia male al cervello, nel senso che comunque è intanto un termine illusorio, cioè il cervello non è nato per fare tante cose contemporaneamente. Il cervello è nato per fare prevalentemente una cosa e cercare di farla bene. E quindi chi pratica il multitasking rischia di fare male le tante attività a cui si dedica contemporaneamente, ma danneggia anche il cervello? Diciamo che su questo ci sono vari aspetti, sia in ambito neurobiologico che in ambito più, diciamo, di tipo neuropsicologico. In ambito neurobiologico è stato provato che il multitasking, cioè esporsi a più attività contemporaneamente, aumenta i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e che esporsi ad elevati livelli di cortisolo danneggia cronicamente le aree della memoria. Dall'altra parte, sempre il multitasking aumenta i livelli di dopamina nel cervello e l'incremento di dopamina perpetua la necessità e il bisogno di velocità e di stimoli contemporanei. Insomma, il cervello si autodroga in qualche modo, si dopa. E questo gli crea un bisogno sempre costante di gratificazione immediata e peggiora le capacità di approfondimento che sono la base per l'apprendimento reale. Quindi, se volessimo fare un esempio, no? Un esempio della nostra vita, sì. Usciamo da casa, stiamo contemporaneamente telefonando e controllando nella nostra borsa l'agenda con gli impegni della giornata. Contemporaneamente ancora cerchiamo di prendere al volo la metropolitana o l'autobus e mentre siamo al telefono dobbiamo organizzare una riunione. Tutto questo tutto insieme è fattibile o è troppo? No, in realtà non è fattibile, ma è un'illusione. Noi ci illudiamo di fare contemporaneamente più cose, in realtà il multitasking di fatto non esiste, noi passiamo semplicemente da un'attività a un'altra e questo implica un enorme costo cosiddetto cognitivo per il nostro cervello, soprattutto se le attività sono tutte di tipo cognitivo, nel senso diverso è se facciamo un'attività motoria insieme ad attività cognitive, ma se stiamo facendo tutte attività cognitive che implicano alcuni meccanismi dell'attenzione e in realtà il nostro cervello semplicemente passa da un'attività all'altra cercando illusoriamente di portarle a compimento, ma in realtà perdiamo in termini di attenzione, perdiamo, come dicevo prima, in termini di approfondimento e ne guadagniamo soltanto forse su un incremento della nostra capacità della memoria di lavoro, che è quella che ci consente di fare più cose, diciamo, non tanto contemporaneamente ma passando da una all'altra, però perdiamo tanto sia in termini di sforzo cognitivo che in termini di capacità poi di andare realmente a fondo di quell'attività. Senta, dottoressa Bizzarro, è possibile che ripetendo sempre le stesse azioni a un certo punto il cervello entri in una modalità, come dire, che ignora una cosa che stiamo facendo? Penso per esempio a quelle tragedie che accadono in ambito familiare, per cui per esempio una mamma che è abituata a fare tutti i giorni la stessa azione, accompagnare il bambino a scuola, un giorno lo dimentica in auto, è successo. Qual è il meccanismo che, che conduce a una cosa di questo genere? Il meccanismo si basa soprattutto su come l'architettura del nostro sistema attentivo, nel senso noi non abbiamo un solo tipo di attenzione, abbiamo un'attenzione diciamo che è sostenuta nel tempo, che è il nostro stato di allerta, quello che ci permette di essere attenti a qualcosa di imprevisto che può succedere. L'attenzione selettiva, che è quella che noi mettiamo nel fare un'attività per volta e che è quella che poi ci porta all'apprendimento, e questa attenzione cosiddetta divisa, che ci permetterebbe di fare quantomeno due compiti. Però su tutte queste c'è un cosiddetto supervisore che diciamo in maniera semplice possiamo dire che è localizzato nel nostro lobo frontale. Quando le procedure, come lei diceva, dottoressa, sono ripetute, entrano in una sorta di automatismo, una routine automatica che prevede che a un certo punto questo supervisore un po' si addormenti, cioè non sia lì più a correggere via via quelli che possono essere gli errori della, diciamo, dell'attività, quindi della procedura. Per cui in ambito delle neuroscienze, quello che è stato proprio spiegato in rapporto a queste tragedie, come il dimenticare i bambini sul seggiolino, è proprio che una piccola deviazione dalla normale routine non sia stata percepita da questo supervisore, e quindi per il cervello, che è facilmente oggetto di inganno, quella diversità non sia successa, non si sia verificata. E poi nell'ambito della giornata un qualsiasi richiamo invece attentivo rende nullo questo inganno e ricorda al cervello che invece qualcosa di diverso è successo. E questo è proprio uno degli effetti negativi del cercare di fare tante cose contemporaneamente. Senta, dottoressa, a parte diciamo queste estremizzazioni drammatiche, talvolta purtroppo tragiche, poi ci sono dei danni che sono apparentemente ridotti, ma che lasciano traccia al cervello. Secondo una ricerca della University of London, per esempio, dedicarsi a più attività nello stesso momento riduce il quoziente intellettivo del nostro cervello. È un po' come se stessimo fumando marijuana. Condivide questa ricerca dell'University of London? Sì. È una ricerca peraltro molto interessante e si basa sempre su quei meccanismi di cui parlavamo prima, cioè il costo cognitivo, l'incremento della dopamina, è un autoinganno, ripeto, del cervello, che si trasforma anche in una riduzione del quoziente intellettivo. La ricerca, se non sbaglio, si riferiva anche a un abbassamento di 10 punti. Addirittura. Sì, e poi ci sono delle implicazioni di tipo anche più neuropsicologico. Il multitasking conduce a un isolamento, riduce notevolmente quello che è la relazione umana, anche perché il multitasking è diciamo un prodotto dell'epoca digitale. Per cui diciamo nei giovani infatti gli effetti si vedono soprattutto sui ragazzi e sui giovani. Sì. I giovani hanno una notevole riduzione della capacità empatica. Lei ha avuto in cura dei casi di adolescenti? Io non seguo direttamente la fascia di età adolescente, però da noi al servizio di psichiatria c'è proprio un centro dedicato proprio per la dipendenza da supporto digitale. Al Policlinico Gemelli. Sì, al Policlinico Gemelli. Senta, in conclusione, dottoressa, visto che siamo alla vigilia del Natale e stiamo facendo tutti 3.000 cose perché poi ci riduciamo alla fine a farle, secondo lei saremmo molto danneggiati dal pensare contemporaneamente agli ultimi acquisti, alla cena da preparare, agli auguri da fare, ai bambini da portare a salutare i nonni, insomma tutto questo che si affolla in un unico giorno dell'anno ci lascerà un cervello con 10 punti in meno? Se saremo capaci di regalarci il tempo per una riflessione e anche una solitudine positiva, probabilmente no. Quindi ci vorrebbe un 5 minuti di meditazione, chiudere la porta e stare in modalità meditativa, lei dice? Sì, assolutamente, nel senso che il tempo, il multitasking ruba il tempo alla riflessione e ruba anche quella, ripeto, solitudine positiva di cui parlavo, nel senso che serve di stare anche 5 minuti al giorno senza far nulla. Senta, io le faccio moltissimi auguri per il Natale, per il 2018.

quella sinfonia che è il nostro ricordo, per cui il passato esiste nella misura in cui esistono i nostri ricordi, no? E questo passato può gravare sul nostro futuro? Sì, può gravare e determina, perché te lo do in un esempio. Guarda, se io in un momento della mia vita, pensiamo anche nella mia tenera età o nella mia adolescenza, mi sono sentita insicura, il mio corpo ha sentito l'insicurezza, la mia mente ha tradotto questo sentire del mio corpo in insicurezza, e quindi quello che doveva essere un morale breve di sentire in quella minima esperienza insicurezza si è protratto nel tempo, quindi è diventata una personalità, poi è diventata un'abitudine, e un giorno io mi dichiaro essere una persona insicura. Quindi è come che quel passato va a predeterminarti, anche come a destinarti a un futuro. Nella misura in cui noi rendiamo più consapevole tutto questo immagazzinare, stai nell'inconscio di tutte le nostre esperienze, più viviamo nel presente, istante istante, momento momento, in questo presente eterno, più riusciamo dal presente a dire: ok, io creo la mia esperienza come con un pensiero, focalizzando un pensiero importante a me, con un'emozione che la faccio vibrare in modo molto alto e la unisco a questo pensiero, quindi io creo la mia esperienza finché si collasserà e avverrà in questa mia realtà dell'oggi. Facciamo un esempio di una donna di 40 anni che comincerà questo anno, il 2018, volendo dare un taglio all'insicurezza del passato e immaginando di trovare un nuovo lavoro, un nuovo partner. Intanto deve focalizzarsi su una o sull'altra delle due scelte? No, ma guarda, una signora di 40 anni, di 30, dico, possiamo proporci, che sarebbe molto bello nel 2018, creare la migliore versione di noi stesse. E la migliore versione di noi stesse è quella che vogliamo essere, cioè di determinare chi vogliamo essere. Possiamo determinarlo anche da dove o da chi non vogliamo essere. Mm-hmm. Per cui se io sono una donna come quella che tu mi poni come esempio, potrei creare l'opportunità, cioè io mi determino 5 punti che sarebbe per me l'opportunità, no? L'opportunità di, appunto, di trovare un nuovo lavoro, di vivere una vita più divertente, un'avventura divertente come vita. Cioè mi metto 5 punti e mi concentro su questo che è l'opportunità che accoglierà tutti i miei le mie buone intenzioni di pensiero, e li unirò a delle emozioni alte finché ci crederò così tanto da poter avere ricordi del futuro e non più del passato. È un percorso, suona magico, ma può sembrare anche difficile, ma è possibile creare la propria giornata, il proprio futuro. A lei è successo nella sua esperienza professionale di avere delle persone che si sono proiettate sul futuro che avrebbero voluto e sono riuscite, non dico a realizzarlo, ma insomma avvicinarsi a quelle che erano le loro speranze? Anche a realizzarlo è un percorso molto interessante, il poter rendere sempre più cosciente, cioè come andare a raccogliere quel passato, renderlo consapevole, restare in un presente e creare il tuo futuro, ma soprattutto creare, dopo che hai unito tutte le tue diversi io, e poter creare la tua migliore versione. Quindi un bel esercizio per tutte le donne e anche gli uomini, perché diciamo per l'umano, è poter proporci cosa non vogliamo essere più, che pensieri non vogliamo avere più, che emozioni negative non vogliamo avere più, ricrearci quell'io diverso dal 2018. Potrebbe essere un bel progetto, un bel bellissimo sogno. Progetto, e noi continueremo ad accompagnare queste diciamo potenzialità della nostra mente anche nel 2018 con la nostra Love Coach Elisa Bulgheroni. Intanto buon Natale. Buon Natale a te, buon Natale a tutti, e soprattutto vi lascerei con una frase che, se vogliamo prevedere il nostro futuro, dobbiamo solo crearlo. Grazie Elisa Bulgaroni.